da leggere, lo sai. E tante storie da scrivere, se vuoi. Hai tante stelle da cogliere, vedrai. Tante emozioni da esprimere, negli occhi tuoi. Ricorda, ricorda, non devi rinunciare a nulla. Ritorna, ritorna, accendi le passioni tue. Ci sono strade da scegliere, lo sai. E ancora spade da stringere, né pugni tuoi. Tante occasioni per vincere, che sfrutterai. E se non riesci a comprendere, se dubbi avrai. Ricorda, ricorda, non sempre la ragione conta. Ritorna e sonda, risorgi dalle gallerie. Coi tempi e le distanze tue, con le fobie, se vorrai. Ma il cielo del passato tuo non rinnegare mai. Ci sono sogni da appendere, lo sai. E delusioni da affiggere,